Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Far diventare forte quello che è giusto. Buon Natale da Maria Luisa Pezzali. Abbiamo deciso di dedicare la prima parte di questa puntata speciale di Essere Avere, Dimmi Cosa Compri e Ti Dirò Chi Sei, a una realtà che in Italia è diventata sinonimo di comunicazione sociale. Parliamo di pubblicità progresso, una realtà che il mondo ci invidia e che quest'anno compie 40 anni. Il claim citato in apertura è proprio quello ideato per la campagna che celebra questo importante anniversario. In questa puntata natalizia ripercorriamo allora la storia e l'impatto sulla società e sulla pubblicità di questi 40 anni di spot di civiltà. Gli acquisti di questi giorni raccontano molto di quello che dal punto di vista dei consumi abbiamo visto quest'anno, lasciano anche intravedere quello che vedremo sul mercato nei prossimi mesi. Tendenze, oggetti cult e tormentoni pubblicitari. Focus sui trend, tutto dedicato allora ai consumi natalizi. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Vacanze al risparmio per Natale e Capodanno. Secondo una ricerca Confesercenti SVG, 8 italiani su 10 hanno scelto di restare a casa. Calano, rispetto all'anno scorso, sia le prenotazioni che la spesa media, intorno ai 600 euro. Far partire i saldi il 5 gennaio è una follia. Così il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, che sottolinea: i soldi delle famiglie italiane sono stati già spesi per le feste di Natale, per i regali e per festeggiare il Capodanno. E poco o nulla resterà per gli acquisti durante i saldi. Gli sconti di fine stagione, conclude, andavano anticipati a dicembre per sostenere il commercio e consentire risparmi ai cittadini. Un maxi albero di Natale illuminato a pedali è quello allestito sul terrazzo di Villa dei Vescovi, proprietà del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, a Luvigliano di Torreglia, nel Padovano. Di fianco all'albero, alto 5 metri e avvolto da più di 800 LED, ci sono due bici a disposizione di chiunque voglia contribuire a tenerlo acceso. Continuano a crescere i grandi della moda, più 11% per il fatturato dei primi 9 mesi del 2011, secondo lo studio realizzato dalla società di consulenza Panbianco, su un campione di aziende quotate, italiane ed estere. Si terrà dal 5 all'8 gennaio a Siena Circo Mondo, festival internazionale del circo sociale. Protagonisti, scuole e progetti attivi in Italia e in altri paesi dell'Europa e del mondo, tra cui Argentina, Brasile e Medio Oriente, per 4 giorni di divertimento e riflessione sulle tematiche sociali legate al mondo dell'infanzia. La borsa della spesa. AIDS. Se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide. Dai una mano anche tu. Per essere utili agli altri non serve volare, basta volere. Volontariato, lo straordinario di ogni giorno. Dateci una mano a educare certe mani. 1988, nasce una nuova cultura contro il maltrattamento dei minori. Chi fuma avvelena anche te. Digli di smettere. Le avrete sicuramente riconosciute, sono solo alcune delle più famose campagne di pubblicità progresso, immagini e slogan che da 40 anni accompagnano i cittadini italiani, vero e proprio specchio dei cambiamenti della società attraverso le sue paure, le sue aspirazioni, i suoi ideali. Nata nel 1971 come associazione no profit, poi diventata fondazione con lo scopo di promuovere una corretta comunicazione sociale e stimolare la coscienza civile ad agire per il bene comune, Pubblicità Progresso si avvale di creativi, registi, designer e agenzie che prestano il loro lavoro gratuitamente. Ha promosso fra le altre campagne contro il razzismo, il rumore, il fumo, l'inquinamento, per la donazione di sangue, la tutela dei disabili, la sicurezza sul lavoro. Campagne che in molti casi hanno fatto epoca, ci dice il presidente Alberto Contri. Ci sono campagne che sono storiche, come quella del sangue, sangue. In Italia occorrerebbero 2.700.000 flaconi all'anno. Se ne raccolgono solo 800.000. C'è bisogno di sangue. Ora lo sai. Ti aspettiamo. Ma subito dopo quella del verde del 72. In casa vostra non vi comportereste mai così, vero? E allora perché quando andate nei prati o nei boschi vi comportate così? Ma i boschi e i prati sono casa vostra, lo capite o no? Il verde è tuo, difendilo. Fu la prima, tutto sommato, critica indiretta al consumo eccessivo e alla distruzione dell'ambiente. Poi ci fu quella famosissima, chi fuma avvelena anche te, digli di smettere, che potremmo trasmettere anche oggi, ma ce n'è una che vedendola fa venire i brividi, perché nel 77 si vede l'alluvione del Po e si dice se andiamo avanti così prima o poi tutta l'Italia sarà alluvionata. E non è una previsione avventata se si pensa che negli ultimi anni circa la metà dei comuni italiani ha subito frane, smottamenti, alluvioni. Questo è quanto siamo riusciti a fare per l'acqua. Abbiamo trasformato una fonte di vita in un nemico, che passa, distrugge, uccide. L'acqua è un bene di tutti. Facciamo tutti qualcosa per difenderla. Subito. Potevamo girarla l'altro ieri, vedendo le scene di Genova piuttosto che del sud Italia. E poi quelle che abbiamo fatto cambiando anche un po' non soltanto l'idea di occuparci quindi dei minorati, di chi è in difficoltà eccetera, ma anche di progetti positivi. Abbiamo fatto una splendida campagna a favore dell'alfabetizzazione informatica che è stata poi imitata dall'IBM in tutto il mondo, abbiamo fatto una campagna contro la pirateria informatica per esempio, e abbiamo fatto una campagna sui disabili ricorrendo la committenza come si usava nel Rinascimento, a Lucio Dalla una canzone sui disabili. Così voglio dire a questo bel cielo sereno che si colora di azzurro, che sono sempre presente. Mi chiamo Maria. È che non è vero, come dice qualcuno, quello è diventato un po' scemo e non capisce più niente. Io sono capito. Mi chiamo Giada. E mi chiamo Giselle. Insomma, ne abbiamo fatti tutti i colori. Adesso ci stiamo apprestando a fare forse la più difficile campagna della nostra storia. A 40 anni dalla campagna sulla ricerca di sangue faremo una campagna sulla donazione degli organi, che è la cosa più difficile che c'è, e ci stiamo cimentando con una super band di creativi che abbiamo messo assieme, super gruppo, per realizzare questa campagna. Ci può anticipare qualcosa su questa prossima campagna? Sarà una campagna che certamente farà leva sull'emotività, perché è inutile far ragionare su questo tema, perché se uno deve pensare per un attimo alla propria morte, al 90% c'è un meccanismo di ripulsa, comunque c'è un feedback negativo. Può sembrare una cosa assurda, ma in termini tecnici noi dobbiamo far diventare di moda diventare donatori, e per fare questo, oltre che a far leva sull'emozione, useremo ovviamente moltissimo i social network. Stiamo studiando tutta una serie di attività sui social network, su Facebook, stiamo cercando di convincere la direzione europea di Facebook a mettere fra i parametri degli amici essere o meno donatori, che avrebbe una potenza emulativa gigantesca. Stiamo studiando una serie di attività virali molto interessanti, quindi sarà una campagna cross mediale, come si dice, come giustamente insegnano i tempi della comunicazione di oggi. Qual è il segreto di una campagna di comunicazione sociale di successo? Quale leva bisogna toccare per raggiungere la sensibilità? Beh, qui il discorso è lungo, però dovremmo dire che innanzitutto dobbiamo abbattere gli stereotipi. Non è vero, e lo diciamo con molta serenità ma anche molta assertività, che bisogna dare un pugno nello stomaco per farsi ricordare. A volte, se noi guardiamo proprio nella nostra mediateca, è vero che ci sono paesi che ancora sono molto cruenti quando fanno vedere per esempio una campagna per gli incidenti stradali, per la prevenzione degli incidenti stradali, ma noi abbiamo stuoli di psicologi che ci dicono: guarda che quando fai vedere le lamiere contorte con magari il sangue che gocciola sull'asfalto, il meccanismo che avviene immediatamente è un meccanismo di rimozione. Uno vede queste immagini così forti e dice: ma io guido benissimo, quello a me non succede. Mentre abbiamo molte campagne su queste tematiche fatte stimolando l'ironia, quindi sollevando la guardia di chi ascolta per farlo riflettere, ma anche su temi molto difficili come le disabilità gravi o addirittura l'AIDS. Quindi basta andare sul nostro portale e queste campagne nella mediateca si trovano. E poi l'altra cosa è che ormai non se ne può più di queste campagne con la voce pietosa, che ti chiedono un euro per qualsiasi cosa, per malattie rare. Certo, sono tutte iniziative anche utili, che però alla fine costituiscono un colossale rumore di fondo. Invece bisogna concentrarsi su poche campagne, cercando di evitare che ci sia solo un gigantesco rumore di fondo, perché poi l'altro problema tecnico di cui gli spettatori non si rendono conto, sto parlando dei telespettatori televisivi o anche radiofonici, che queste campagne vengono mandate in onda per pochi giorni, per pochi spazi residuali, si assomigliano tutte, quindi anche in termini di linguaggio creativo sono poco significative. Alla fine dell'anno uno si volta indietro, vede milioni e milioni di spazi dati a una miriade di piccole proposte che non raggiungono in realtà dei risultati significativi. Quindi il ruolo nostro è quello che facciamo anche tramite i seminari, è di spiegare proprio tecnicamente, ecco perché andiamo in giro per le università, i futuri comunicatori, a spiegare quanto è importante fare delle campagne oggettive, molto semplici, che abbiano quella che con un anglicismo noi chiamiamo la call to action, cioè io ti chiamo a fare qualcosa di preciso e non mi lamento semplicemente dei mali del mondo, oppure non creo semplicemente un po' di emozione. E quindi sono campagne che in realtà si fanno con le stesse tecniche delle campagne commerciali, se non che si occupano di problematiche sociali, quindi sono molto più difficili da realizzare. Cosa pensa, Presidente, delle campagne pubblicitarie tradizionali che in nome di un proposito sociale scandalizzano, cercano lo scandalo, l'effetto? Adesso non voglio citare casi più recenti. Si commentano da sole, abbiamo visto anche in passato molte campagne pseudosociali, in realtà con sotto la firma di aziende, di note aziende, che cercano quindi di attirare solo l'attenzione sia sull'autore che sull'azienda medesima, quindi mi sembra una carità veramente troppo interessata, il che non esclude che invece si possano fare campagne di responsabilità sociale d'impresa dove ci sono aziende che propongono dei valori positivi, per esempio una famosissima che è diventata forse il virale più visto in tutto il mondo e parte come una piccola campagna televisiva avvenuta solo in Canada, la campagna della Dove, che è questa azienda famosa di prodotti per la bellezza, ma di basso costo, che propone un concetto più vicino alla realtà della bellezza raggiungibile, ecco. Oppure un'altra campagna famosa che fu fatta dalla Heineken, cito i marchi perché questi casi se lo meritano, per diffondere un concetto del bere consapevole, eccetera. E noi oggi assistiamo al concetto anche che molte campagne, addirittura commerciali, per prodotti come automobili elettriche, servizi che fanno risparmiare energia, che utilizzano in termini di linguaggio tutto il linguaggio usato dal WWF piuttosto che da campagne famose nel corso degli ultimi anni per promuovere la difesa e la tutela dell'ambiente. Quindi c'è quasi una convergenza interessante, andando incontro a questi periodi di crisi che stiamo vivendo, anche il concetto che dobbiamo mirare più alla felicità interna lorda che non al prodotto interno lordo diventa un fenomeno molto interessante. Per concludere, comunicazione sociale anche per alzare l'asticella, la qualità della comunicazione pubblicitaria tout court. Assolutamente sì, e quindi puntiamo a questo e ci stiamo riuscendo, almeno nel nostro piccolo. Poi purtroppo il rumore di fondo è ancora molto elevato, però anche grazie a voi questi concetti cerchiamo di farli passare. Pubblicità progresso a parte, anche i brand, quindi la pubblicità commerciale, lo abbiamo sentito, può fare comunicazione sociale, ma in che modo? Lo abbiamo chiesto a Emanuele Gabardi, autore di Social Advertising, campagne pubblicitarie per un mondo migliore. Storicamente la prima marca che ha fatto comunicazione sociale, almeno utilizzando grandi mezzi come la televisione, è stata Dixan all'epoca di Celentano, Canzonissima. Successivamente molte altre aziende si sono mosse in questo senso. MTV storicamente fa delle campagne sociali, è molto sensibile da questo punto di vista. C'era una campagna negli Stati Uniti, tre fotografie della tragedia delle Torri Gemelle, e nel testo si faceva un paragone tra le persone che erano morte nelle Torri Gemelle e invece quelle che erano morte per altre cause, il fumo, l'AIDS o altro. Questa cosa però ha suscitato delle perplessità e questa campagna è stata bloccata. Secondo lei quali sono i temi necessari, per così dire, di comunicazione sociale per i prossimi tempi? Temi vecchi su cui tornare oppure temi nuovi? Non si può dire che ci sono dei problemi assolutamente nuovi. Semmai ci sono problemi relativi agli ultimi decenni, fino ai primi anni 80 non si parlava dell'AIDS, però di prevenzione in Italia, ahimè, se ne parla molto poco. Un altro tema sicuramente importante è quello del razzismo. Le aziende già da qualche anno hanno scoperto che parlare di comunicazione sociale nel loro ambito può avere dei ritorni d'immagine. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, con i Cluster. Dall'esibizione nel più grande spettacolo dopo il weekend apriamo il focus sui trend di questa puntata, focus sui trend tutto dedicato ovviamente ai consumi natalizi. Facciamo il punto sulle tendenze di questo Natale 2011. Accanto a me, come sempre, la nostra esperta Patrizia Martello di Memetti Club, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata, auguri anche a te. Grazie, buongiorno, buon Natale a tutti. I consumi natalizi raccontano molto dell'anno che vanno a chiudere, rivelano lo stato di salute dell'economia, ma sono anche una sorta di cartina di tornasole per le nuove tendenze, sia in termini di prodotti che di campagne pubblicitarie. Tra budget ridotti all'osso e caccia all'affare, Patrizia, allora che cosa è degno di nota quest'anno? Quest'anno Natale austero, ma regali sì, certamente non si smette di farne, giocattoli, profumi, tecnologia, oggetti per la casa, ma utili e scelti online, comparando prezzi per trovare l'affare migliore. Da kelco.it, spendomeno.com, trovaprezzi.it, l'ormai storico ciao.it, internet si conferma una guida influente e decisiva per l'acquisto, che poi non necessariamente avviene online, ma anche nei negozi che offrono l'affare migliore, appunto, ma comunicato in rete. Negli ultimi tre mesi, il dato è di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano, la metà dei 25 milioni di utenti internet italiani si è informato così, cioè online, prima di comprare, e poi l'ha fatto nel 30% dei casi offline, nei negozi, e nel 25% via e-commerce. Dicevamo, regali utili all'insegna della sobrietà, certamente, ma non punitiva. Ed ecco il trionfo del cibo gourmet per questo Natale, che si carica di gratificazione compensativa, evidentemente in tempo di crisi. Si risparmia soprattutto sui prodotti tradizionali, si mangia meno fuori, si dà la caccia alle offerte anche nei supermercati, ma non si va dal prezzo alla qualità nei momenti importanti, com'è d'altra parte la festività natalizia. E in linea con questo nuovo palinsesto alimentare, diciamo così, la saggezza per niente privativa, lo ripetiamo, dell'invito esplicito anche di Italy, la catena di alti cibi italiani, a comprare meno ma comprare bene, dove bene significa alimentarsi consapevolmente con prodotti di alta qualità, sapendo da dove viene il cibo e come è stato lavorato, quindi spendendo la cifra a disposizione ma per avere un po' meno quantità ma più qualità. Diventiamo tutti sempre più foodies, cioè appassionati, esperti, innamorati di enogastronomia, e c'è questo gusto diffuso per la ricerca delle eccellenze italiane, quelle dei moltissimi territori che vantano primati agroalimentari, ma c'è anche una predilezione per prodotti semisconosciuti, quasi inaccessibili per limite di produzione, quindi prodotti di super nicchia ma acquistabili sul posto o online. La tecnologia non ha fatto eccezioni in termini di austerità, un Natale meno digitale, con il settore della telefonia mobile comunque in crescita e con gli smartphone che trainano questo comparto come sostituti degli altri cellulari, ma acquisti di nuovo non impulsivi, comunque oculati, che pare abbiano risposto anche in questo caso alla domanda mi serve, con doni high tech ormai trasversali alle generazioni e dall'uso multiplo. Questo è interessante, per esempio, tra più membri della stessa famiglia. È il caso di questo Natale, record di vendite assoluto per i nuovi Kindle, Kindle, i lettori di ebook, acquistati su Amazon.it. Dai dati di vendita diffusi già prima di Natale, erano più di 2 milioni i pezzi venduti in soli 2 mesi, e questo dato è superiore al totale delle vendite di tutto il 2009. D'altra parte, sono ormai 16.000 i titoli italiani resi disponibili dai maggiori editori. Dunque il Kindle comincia a parlare italiano. Anche sul fronte gadget e piccole idee, piccoli oggetti accessibili, siamo all'insegna della funzionalità. Oggetto culto di questo Natale andato a ruba, non si trovava già più una settimana fa, è il guanto per iPhone di Muji. Muji è il brand no logo no frills giapponese di oggetti per casa e ufficio, ormai notissimo in Italia. Il guanto è il pezzo forte della nuova collezione di abiti Muji. È in lana, naturalmente in scala di grigi, all'estremità delle dita di pollice e indice ha dei sensorini che consentono l'uso del touchscreen quando fa freddo, perché appunto, come noto, qualsiasi altro guanto rende inutilizzabile l'iPhone, sensibile solo alle dita nude. Stiamo in casa Apple, che ha scelto Babbo Natale per il nuovo spot iPhone 4S. Lo si vede alle prese con Siri, il software di riconoscimento vocale che per ora funziona solo in inglese, a cui chiede le informazioni sulle condizioni meteo, le indicazioni stradali per i 3.7 miliardi di regali da portare, come gli ricorda la voce dell'assistente dopo ogni consegna. Grande successo anche quest'anno per Etsy.com, il marketplace dell'artigianato, che è rimasto un punto di riferimento altamente ispirativo anche per gli acquisti natalizi. E al cinema, tra cinepanettoni e grandi colossal natalizi, in questi giorni di festa c'è spazio anche per qualcosa di diverso. Tra le pellicole fuori dal coro, è stato definito il cine cioccolatino di Natale, abbiamo scelto la commedia Emotivi Anonimi, un film tutto sulla timidezza appena uscito nelle sale italiane. Buongiorno, Angelique. Emotiva. Buongiorno, Angelique. Non lasciarti impressionare dal capo. Al primo impatto sembra un duro. E al secondo? Sempre duro. Signore, è la prima candidata per il posto. Le piace il cioccolato? Sì, in ogni caso è necessario. Grazie. Idonea. Oh. Signorina Delange! Lei dovrà toccare qualcuno. Toccare? Toccare come? Ero riuscito a prenderle la mano. Oh. Mi dispiace, ma siamo tutti e due emotivi. Corriamo verso la catastrofe, è inevitabile. Io dormo sul divano. Ma qui non c'è il divano. Ah sì? Patrizia, ogni Natale che si rispetti porta con sé anche un tormentone virale, un video, un'immagine, un augurio che fa online il giro del mondo. C'è anche quest'anno? Sì, l'augurio tormentone virale della rete, quest'anno è un tormentone iconografico, parliamo di un'immagine, è una scritta su un muro, dice Merry Crisis and Happy New Year, i suoni rimandano a Christmas e a Year, ma l'augurio significa buona crisi e buona nuova paura alla lettera. Questa scritta è comparsa su un muro di una qualche città, non importa quale, anzi ci dice che la crisi è percepita a livello globale, è stata fotografata e postata da un francese, Archie di Non, poi è stata ripresa dal suo blog da tutti gli altri. È una scritta che in effetti anche per il Natale italiano evidentemente ha un portato di verità, oltre che di ironia, un modo comunque per esorcizzare la crisi. Non possiamo comunque non citare qualche esempio di consumi natalizi luxury. Un esempio di lusso con il contagocce, potremmo chiamarlo, è il Ritual Box di Mumm, marchio di champagne di Pernod Ricard, proposto online sul sito di Colette a 5.000 euro, disponibile in soli 11 esemplari. E torniamo ai consumi natalizi di massa. Anche i giocattoli per bambini, voce apparentemente intoccabile nei budget natalizi, rispecchiano le nuove pratiche creative di sopravvivenza del consumatore di oggi e diventano anch'essi beni in affitto. Babyplace.com si chiama il sito, fondato da un gruppo di mamme imprenditrici americane. Scambiano e affittano giochi per bambini fino a 4 anni. Fino a 4 anni è il periodo in cui c'è più rotazione di oggetti, di giochi, e il loro noleggio garantisce variabilità nell'esperienza di gioco, apprendimento, riuso e risparmio. In Italia, dicono gli esperti di settore, non attecchirà perché siamo mammoni, ma intanto il settore dei giocattoli per questo Natale ha avuto una contrazione del 12%. Altro indicatore della nuova antropologia dei consumi, i regali etici, gli acquisti cioè che comprendono una quota della spesa che poi viene devoluta per cause umanitarie, azioni di beneficenza o sostegno delle molte iniziative di charity. Come ha detto qualcuno, è un po' difficile sentirsi degli eroi mentre si compra un paio di scarpe o un maglione, ma anche questi gesti ci dicono delle nuove identità dei consumatori contemporanei. Simbolo dei simboli del Natale, l'albero. Sempre più eco-friendly, la scelta del tipo di albero dice di una nuova sensibilità green, ma non solo, perché il verde, come dice Yolanda Schmittiene, è anche simbolo di pace. È un'artista che per il terzo anno ha arredato la piazza principale di Kaunas, città lituana. L'artista, con un'azione di grande responsabilità sociale, possiamo dirlo così, ha deciso di non chiedere fondi alla municipalità e ha creato un enorme albero di Natale alto 13 metri, legando insieme 32.000 bottiglie di plastica di colore verde riciclate e 40.000 lucine. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Singapore e Milano? Per questa puntata viaggiamo da un capo all'altro del globo su consumi natalizi e dintorni. Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia, auguri anche a te, buon Natale. Ciao, buon pomeriggio e buon Natale anche a voi. Le due città quest'anno sono idealmente unite dalla medesima iniziativa, ossia un tecno albero di Natale social, iniziativa ideata da due brand globali, Heineken a Singapore e Nescafé a Milano. Al di là delle differenze di realizzazione, a Milano l'albero digitale si trova in stazione centrale ed è costituito in pratica da un grande schermo piatto. A Singapore si trova in una piazza della città e trattasi di una struttura metallica piramidale alta 11 metri circa, su cui sono stati montati 48 schermi LCD a formare appunto un abete. Ma al di là, dicevo, delle differenze strutturali, il principio che anima le due installazioni è lo stesso: trasporre i social network nello spazio pubblico. Entrambe infatti funzionano grazie a una Facebook app, un'applicazione realizzata ad hoc, scaricabile dal sito di social network, che permette agli utenti di creare i propri auguri natalizi con parole, animazioni, suoni e immagini e condividerli sull'albero. Ma non solo, nel caso specifico di Singapore, una fotocamera posta di fianco all'installazione permette alle persone di postare la propria faccia sull'albero, quindi decorato con i volti dei passanti. Grazie Alessia, buon Natale social dunque a tutti qua. Patrizia, siamo in conclusione. Dati a parte, quelli arriveranno nelle prossime settimane e ci diranno quanto e come abbiamo speso. Qual è però l'atteggiamento di consumo che è andato profilandosi e che ritroveremo con ogni probabilità per tutto il prossimo anno? Dunque, parlando di consumi in senso stretto, la routine sarà all'insegna della sobrietà, con consumi però gratificanti a intermittenza nel micro del quotidiano, quindi dal cibo ai consumi culturali, con l'utilizzo di queste strategie di ricerca e di acquisto di affari. Quindi ritroveremo i coupon ludici, di cui abbiamo parlato anche nella puntata Happy Deal, tutte le offerte promozionali locali, geolocalizzate, combinate con esperienze divertenti, in primis giochi su smartphone o su Facebook. Da segnalare, perché ha appena vinto un premio come startup dell'anno italiana, Bain2, che all'accumulo di punti dei vari giochi che propone fa vincere bibite e panini nei fast food vicini a dove si gioca, chi sta giocando. In termini di megatrend, il 2012 segnerà l'inizio di un lungo cammino della mobilità urbana sostenibile, con l'arrivo sul mercato delle city car elettriche. Secondo un recente studio del Censis, infatti, un italiano su cinque già quest'anno ha ridotto l'uso dell'automobile nei centri urbani. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it, sezione podcast. A domenica prossima, di nuovo buon Natale da Maria Luisa Pezzali.